Palla Spicchi con Carlo Genta. Can they finish off this extraordinary comeback? Seven to shoot. Nowitzki. Lefty layup. Banks it in. With 3.6 remaining. Miami out of timeouts. Trailing by two. James back to Wade. Wade puts it up for the win. Off the mark. And Dallas has tied the finals with one of the most incredible comebacks in NBA Finals history. Buon pomeriggio a tutti, da noi ci sono due squadre che, come ha detto Trinchieri, l'altra sera allenatore di Cantù, hanno messo il marchio sulla serie 2-0 per Cantù su Milano e per Siena su un inesistente Treviso. Da loro c'è una finale, da loro in America c'è una finale che vive nel segno di una meravigliosa incertezza e cronaca della notte. La facciamo subito: Miami perde in casa con Dallas 95-93 dopo che a 7 minuti dalla fine era più 15, già stava festeggiando in campo e in tribuna, ma prima che piovesse la furia di Dirk Nowitzki. Dunque, Dallas conquista il fattore campo. Con me oggi Luca Chiabotti, prima firma del basket sulla Gazzetta. Ciao Luca. Ciao a tutti. Il nostro amico naturalmente. E come sempre, Coach Dan Peterson. Ciao Coach. Ciao Carlo, amici sportivi, ciao a tutti. Luca, un abbraccio, ok? Un abbraccio, Coach. Coach, adesso mi fai un pronostico in corsa su Dallas-Miami. non basta Chiabotti che mi mette in croce ogni anno. Ma guarda, ovviamente in corsa, Dallas . Ha preso il vantaggio adesso teoricamente, però in una serie 4 su 7 cioè, sappiamo benissimo, adesso Dallas gioca 3 partite in casa perché c'è il formato 2 a Miami, 3 a Dallas, 2 a Miami, come fanno quando c'è est ovest per risparmiare stanchezza e forse anche soldi sui viaggi. Dallas ha 3 partite in casa, però raramente, come sa Luca benissimo, raramente la squadra che ha 3 partite in casa riesce a vincere tutte le 3, quindi Miami presumibilmente vincerà una di queste partite, però avendo sbancato Miami, momentaneamente Dallas è in vantaggio. Luca, conta anche il modo in cui vinci le partite. Assolutamente. E quello di stanotte è stato impensabile a dir poco. Sì, soprattutto perché Dallas si porta ancora sulle spalle come ha perso la finale del 2006, cioè avanti come era più o meno Miami in questa partita in gara 3, con la possibilità di andare sul 3-0, poi sconfitta con tiro libero sbagliato di Nowitzki alla fine e persa la serie finale. Quest'anno Dallas ha fatto già delle rimontone, le ha fatte contro i Lakers, le ha fatte contro Oklahoma City. Questa è stata fantastica e devo dire che mi ha un po' sorpreso perché sembrava una partita già morta e sepolta. E poi devo ancora capire se com'è possibile che Dwayne Wade faccia 35 punti, compreso il canestro del più 15 a 7 minuti dalla fine, e poi non veda più la palla. E quindi vuol dire che c'è ancora qualcosina da mettere a posto nelle gerarchie di Miami. È un po' tardino, no? A giugno inoltrato. Coach, mi dici se vuoi e se puoi cosa stai pensando invece tu, cosa stai inventando, cosa stai studiando per cancellare quel marchio che Trinchieri ha messo sulla serie. Stasera, gara 3, vivere o morire. Ah, esatto, non ci sono alternative, come dicono il migliore di famiglia, cioè noi abbiamo l'obbligo di andare in campo e vincere tutto lì, non ci sono altre storie, quindi non sarà facile perché, come si sa, Cantù è un'ottima squadra e avremo veramente le mani piene, cioè, questo è poco ma sicuro, però mettiamo quello che possiamo mettere in campo questa sera, cercando di avere il fattore campo. Mi dicono che tutto è esaurito, 8.000 persone, di cui 1.000 da Cantù, quindi i nostri sono andati a Cantù, quelli di Cantù sono venuti, verranno qui a Milano, come sono venuti nel ritorno durante il campionato, qui una serie molto viva, molto attiva, molto sentita dalle due squadre, questo poco ma sicuro. Noi dobbiamo semplicemente giocare, diciamo, tutta la partita come abbiamo giocato gli ultimi minuti ultimi due quarti, sì, della partita a Cantù, e dobbiamo centrare i canestri, non possiamo continuare a sbagliare 6 su 40 da 3 nelle due partite, cioè 4 su 19 e 2 su 21, questo non esiste perché abbiamo la gente capace di fare questo, io sono super convinto di quello che sto dicendo, cioè, però è inutile che lo dico io, dobbiamo dimostrare di avere questa qualità. Ma dimmi solo sì o no, non che cosa, cambierai qualcosa rispetto alle due partite di Cantù? Ma cosa si può cambiare a questo punto della stagione? Cioè, noi siamo esattamente come Cantù, vedono filmati, dicono, oh, possiamo migliorare questo, e certamente chiamando l'attenzione alle cose la squadra migliora, questo è sicuro, non fanno più un certo errore che hanno fatto magari precedentemente, però noi siamo come loro in questo, non è che inventiamo qualcosa noi per questo qui, lo escludo assolutamente. Luca, come vedi Milano stasera? Come vedi questa serie? Credo che, come ha detto coach, la fine di gara 2 abbia un po' confuso i pronostici, che vedevano comunque Cantù che aveva fatto un'ottima partita in gara 1 e fino al più 15 anche lì di Šekić al 26esimo sembrava perfettamente in controllo della gara. È chiaro che Milano deve allungare la serie. Io credo che più si allunghi la serie, più Milano abbia possibilità di far valere il suo organico, le sue maggiori alternative, il fatto che la stella di Cantù è un giocatore assolutamente meraviglioso, che è Mazzarino, ma ha 35 anni, e quindi è logico e naturale aspettarsi che possa avere almeno una partita, uno o due di stanchezza a vuoto, e lì poi c'è il problema del turnover, no? Perché l'altra volta hanno scelto un lungo, Šekić e Ortner, lasciando in panchina Tabu. Secondo me alla fine hanno fatto bene come scelta iniziale, perché hanno avuto problemi di falli coi lunghi e sono riusciti a sopravvivere, ma alla fine sul press di Milano hanno fatto una fatica terribile, quindi anche lì il piccolo o il lungo è una cosa credo che nell'equilibrio di questa serie abbia il suo peso. Sì, certo, quello che dici si legge negli ultimi 15 minuti di quella partita, no? Trinchieri ha detto: eravamo piantati sul Tourmalet in conferenza stampa, ed è vero, e può valere per l'intera serie, perché più la serie si allunga giocando ogni due giorni, è chiaro che Milano è più fisica, ha più possibilità di buttare sul campo energia semplicemente perché ha rotazioni più lunghe. Coach, ti voglio fare ancora una domanda, che è un discorso che poi io e Luca faremo, perché ci siamo trovati d'accordo qui fuori prima di cominciare la trasmissione. Siamo sicuri che questa formula di playoff con serie così lunghe sia quello che ci vuole? Perché io stavo sognando a occhi aperti una Final Four per il finale di questo campionato. Soluzione un po' di retroguardia, di emergenza, come vuoi, però forse accenderebbe di più la fantasia. Ma io dico questo, Final Four abbiamo già nell'Eurolega, altre cose. Io playoff sono playoff. Io sono pro playoff quando non era neanche tanto popolare negli anni 70, quando è cominciato nel 77, è stato il primo vero playoff. Altre volte abbiamo avuto il pool scudetto per due anni, 75 e 76. Io forse nella finale 4 su 7 in Italia mi sembra che magari sono qualche partita di troppo, tanto per dire. 3 su 5 mi sembra una serie ragionevole, questa è la mia opinione su questo qui, però playoff sono playoff, bisogna, si lavora tutto l'anno, ma guarda che è il caso di Cantù, okay? Che ha lavorato con grande dedizione tutto quest'anno per avere questo vantaggio che hanno di campo nei playoff, cioè l'hanno meritato loro, cosa dobbiamo togliere questo loro? Io sono contrario a questo, cioè, anche se vorrei tanto avere io il vantaggio che hanno loro, ok? Però l'hanno meritato loro, cioè cosa sì, si può dire? Hanno lottato per questo, lavorato per questo, investito, cioè sangue, energia, tutto quello che vuoi dire, tutto l'anno per avere questo, cioè io non mi va di togliere da qualcuno qualcosa che hanno guadagnato sul campo. Poi basket come baseball e tradizione dice per esempio che hockey in America sono i playoff, ok? Sì. Assolutamente, la serie mondiale, il baseball, Stanley Cup in hockey, NBA playoffs nel basket, cioè, quindi sono parte della tradizione, non vorrei neanche minimamente modificare questo. Coach, in bocca al lupo! Crepi al lupo, ciao ragazzi, un abbraccio. Arrivederci, Luca. Coach. Noi torniamo insieme, vi ricordo 800 24 00 24, numero verde per parlare con noi, messaggi 349 238 6666. Con me Luca Chiabotti, c'è Paolo, simpatizzante di Casale. Altra serie aperta, non c'è solo l'NBA o la serie Scudetto, quella di Lega 2, simpatizzante di Casale, diceva Paolo, quindi simpatizzante e felice perché Casale Monferrato è la prima finalista della Lega 2, ha vinto ieri a Barcellona, ha chiuso la serie sul 3-0 e aspetta Veroli o Venezia 1-1 in questa serie invece, con gara 4 che si gioca con oggi, gara 3 che si gioca oggi, gara 4 eventuale domenica, anzi certa domenica. Allora Luca, sto discorso dei playoff, a proposito Paolo scrive due domande, uno, due match alla Rai, uno per la 7 il prossimo campionato, comunque potresti parlare di scenari. La seconda cosa, se Teramo riuscirà a versare i soldi, cosa dici? Ma ci auguriamo che Teramo versi i soldi, perché sennò tutta questa, la questione della cosiddetta wild card, che non è una wild card, ma è una tassa di sopravvivenza e forse anche un po' di sopruso, che è stata inventata, mostrerebbe talmente la corda, perché un conto è dire bisogna pagare, un conto è dire pagherò, e quindi entriamo nelle classiche cose, delle classiche cose all'italiana. Ci auguriamo che paghi, perché hanno fatto comunque degli ottimi campionati, una società che dà delle garanzie da questo punto di vista, non che le squadre della Lega 2 non lo diano, perché quelle che sono adesso sono rimaste, diciamo, in tre in corsa, sono tutte squadre super da questo punto di vista della garanzia tecniche, economiche, quindi è persino un peccato pensare che non possano venire su almeno in due, o forse, adesso chissà, vedremo che cosa accadrà. Scenari? Gli scenari credo che per la pallacanestro siano foschi, gli scenari televisivi, perché tutti questi discorsi Rai, la 7, che sarebbero molto interessanti da perseguire, si basavano su una grande idea, che era quella di poter avere comunque Sky che facesse una parte del lavoro importante, come la produzione delle partite e di certe partite, e il versamento di una cospicua somma che sarebbe servita poi per produrre le altre anche, che magari andavano su canali diversi. Mancando questa alternativa di Sky, credo che le discussioni siano molto lunghe. E il presidente Renzi aveva detto che alla fine del mese, cioè scorso, cioè tre giorni fa, si sarebbe saputo qualcosa. In realtà non si sa ancora molto niente, credo che sia molto, molto difficile. Prima che pensare scenari strani, direi auguriamoci di vedere la pallacanestro in televisione. Sì, e comunque sarà, secondo me sarà una storia lunga che si risolverà dopo l'estate, ho l'impressione. Sì, come al solito durante la presentazione del campionato alle 10:10 con la presentazione alle 10. Di solito gli scenari sono questi. Almeno qui. Senti, abbiamo già ascoltato in linea Rovigo e Torino, le prime città prenotate dei loro rappresentanti, Giuseppe e Carlo. Poi vorrei fare appunto questo discorso strampalato magari di playoff. Giuseppe, Rovigo, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Giuseppe Rovigo. Niente, io volevo intervenire parlando naturalmente di Cantù Milano, insomma, e con un grande, siccome io sono, ho 40 anni e seguivo Gian Peterson da quando, insomma, si vinceva qualche scudetto che contava, insomma, fa piacere, lo dico con un po' di rammarico, insomma, sentire tutta l'energia, l'orgoglio, la dignità che ci mette Dan Peterson ogni volta nei suoi commenti. E purtroppo poi non è seguito dalla squadra nella maniera più assoluta, insomma, ecco, adesso probabilmente magari potrà allungare la serie a Milano, però poi Cantù resta la favorita. Cantù resta la favorita di questa serie, a maggior ragione sul 2-0. Poi vediamo, ha ragione Luca Chiabotti, però, quando dice che più la serie si allunga, al di là di questa eventuale, molto molto molto eventuale quinta partita al momento che si giocherebbe a Cantù, a quel punto la spia delle energie canturine potrebbe essere accesa in maniera viva. Poi la squadra che segue Dan Peterson non lo so, la sensazione, insomma, che è una squadra che sta difendendo molto bene, ogni volta che ha la palla in attacco sembra sia in miniera alla ricerca delle pepite. Sì, non ha gioco, anche come diceva prima coach Peterson, la percentuale del tiro da tre punti. Anche Cantù non ha avuto un splendida in gara 1, perché se l'Union avesse fatto alcuni tiri coi piedi per terra probabilmente una partita che finiva di 20. Però i tiri di Cantù sono costruiti bene, e quelli sbagliano, perché capita che il giocatore sbagli. L'80% dei tiri da 3 di Milano sono forzati. Sono al 20° dopo 4 palleggi, perché o Jaber o Hawking non ha saputo fare altro che sparare da 3. E questa è la grande differenza, e questa è la grande differenza. Per cui non è solo questione di percentuali. Come dici tu, l'attacco di Milano è veramente modesto. Poi, se difende, recupera palloni, corre, è un'altra storia. Ha un solo giocatore creativo che è Lingrier, che però io continuo a dire, a me sembra più vicino all'ex giocatore che non al giocatore attualmente in attività. È un paradosso, Lingrier, secondo me, perché più c'è, diciamo, confusione, più Lingrier serve. Certo. Perché nel secondo tempo di Cantù nessuno faceva più niente, non riuscivano più a tirare, non succedeva più niente in campo, se non una gran confusione. Allora ci vuole il giocatore che piglia la palla da solo e tira e fa canestro. Esatto. Paradossalmente, se si gioca a pallacanestro, Lingrier è inutile. Carlo da Torino, buongiorno. Buongiorno, vi rinnovo i complimenti per la trasmissione. Grazie. Io per quanto riguarda la partita Milano-Cantù, una cosa che ho notato è che Milano non riesca minimamente ad incidere dal punto di vista atletico. Cioè, mi spiego, in un basket dove l'atletismo conta sempre di più, a bocce ferme, se pensi Eze contro Marconato, Jabber contro Mazzarino o Hawkins contro Mitchell, penseresti di portarla sempre, quasi sempre a casa, e invece quello che ho notato nelle prime due partite è proprio l'incapacità di Milano di far pesare il suo atletismo e quindi, cioè, generare canestri facili in attacco, perché poi se non corre, come avete detto voi, non crea nulla, e a mio avviso anche perché molti giocatori di Milano, forse a parte l'ultimo arrivato Carl, nessuno gioca senza palla, sono tutti sempre lì fermi che sembra giochino ai quattro cantoni. E poi soprattutto, secondo me, un punto decisamente da approfondire è il rendimento di Eze, che comunque è pagato come un top player, gioca contro un ammirevole Marconato, ma che comunque ha un chilometraggio già elevato, e non riesce minimamente ad incidere sulla serie e sulla singola partita. Volevo sapere, insomma, cosa ne pensate. Le lascio la risposta a Luca Chiabotti. Quanto a Eze, non sarà mai un giocatore in grado di spostare in attacco, quindi a prescindere da quanti soldi guadagna. Poi sì, quanto al resto è abbastanza condivisibile quanto dice l'ascoltatore. No, più che altro facciamo i complimenti all'ascoltatore, perché non perché la pensiamo esattamente come lui, ma perché ha centrato dei problemi reali. Eze è un giocatore, a me piace molto, è un giocatore interessante. In un sistema si riesce a farlo rendere anche in attacco, in un non sistema no. E il problema è proprio quello che dicevamo prima, che diceva anche l'ascoltatore. Milano in attacco non ha un sistema, ha tentato di utilizzarlo molto bene, meglio all'inizio del secondo tempo di Cantù, di gara 2, e c'è riuscita, però non c'è mai la continuità di una volta. Si vede che Peterson e i suoi assistenti durante l'intervallo hanno detto: diamo la palla a Eze, facciamo due movimenti per Eze, sono usciti, hanno fatto tre azioni per Eze, sono andate bene, poi non hanno più servito Eze. E quindi è proprio una questione di sistema. È sorprendente, sì, che l'aspetto atletico è veramente fondamentale, anche perché spesso lì c'è un problema, che spesso devono cambiare le marcature, quindi devono mettere, non so, Hawkins sul playmaker per tentare di bloccare, lo fa spesso Peterson. Sì. Allora poi magari si trova invece in situazioni in cui non ha quella superiorità, che mette Jabber su Mazzarino e va bene, sì. Però poi sul terzo non ha quella superiorità che potrebbe avere se dovesse marcare tutti col pari ruolo. Certo. E quindi Cantù è talmente brava che allora va da Mitzov, se è marcato nel modo... Allora fanno i cambi, mettono il quintetto alto, vanno da quell'altro. Sì, E questa è la forza di Cantù. Ah, certo. Prima di parlare con Marco, Piergiorgio e Francesco, Luca, volevo una tua battuta su... Poi parliamo anche di Treviso, che è deludente a dire poco, perché non mi importa che perdano contro Siena, ci può anche stare, ma perdere in questa maniera, secondo me, è davvero una cosa brutta per Repesa e per Treviso. Perché va bene perdere, ma non combattere nemmeno, questo no, io credo. Però su questa storia un po' provocatoria di un eventuale Final Four, allora immaginiamo adesso, invece di giocare queste serie al meglio delle 5, una serie al meglio delle 7 con una finale che sarà, a mio parere, e lo dicono anche i numeri, tra Siena e Cantù, che lì tornerebbe 30 anni dopo, proprio come quella volta dopo una semifinale con Milano, ma queste sono altre storie. Dunque, immaginiamo partita secca a Roma, la butto lì, Siena contro Treviso e Milano contro Cantù il venerdì e poi il sabato partita secca, si gioca per lo scudetto. Io so già chi vince su Siena e Cantù e possiamo anche nasconderci, ma fa niente. Vincerà Siena sulle 7 partite. Più la serie è lunga, più è sportiva, e siamo d'accordo, più premia la migliore delle due. Sulla partita secca non lo so. Cioè, sinceramente, non saprei chi... No, scommettere è una parola vietata in questo periodo. Non saprei chi pronosticare. Sì, come dicevamo prima e come avevi già anticipato tu, stiamo parlando di battaglie di retroguardia, perché è chiaro che un movimento sano, che ha tante squadre forti, che ha tanti belli impianti da riempire, che ha tante di queste belle cose, più partite fa, più sono contenti, più la sportività viene salvaguardata, sì. Bello, paese delle meraviglie, siamo tutti felici. In questo momento l'Italia è in un momento certamente di difficoltà, dove i primi turni dei playoff spesso sono poco tirati, dove si arriva a delle semifinali troppo lunghe perché le squadre anche che arrivano in semifinale non magari non sono così attrezzate. Le Final Four, allora, io non sono così comeinista come te, nel senso che forse la Final Four è un po' troppo, sono più petersoniano nel dire che forse non riusciamo a sostenere delle serie così lunghe e con questa formula, perché se le prime due partite si giocano in casa, che è molto più comodo per le squadre ed è molto più logico, però è molto più brutto perché la seconda partita la fai in casa, vai in trasferta già sul 2-0, quindi con la serie segnata, ed è molto più brutto per il pubblico perché ad esempio anche a Siena gara 1 sono andato, mi sono sorpreso di vedere pochissimi spettatori nonostante la cifra alta, ma per la quota abbonati vuol dire che molti abbonati non sono neanche andati a vedere la partita perché si sono stufati di vedere queste partite a 40 punti, a 30 punti che non dicono niente. Siena, che è la squadra migliore d'Italia, non vede partite decisive se non in Eurolega con questa formula, ed è sbagliato. Detto questo, potrebbe valere il discorso dell'Eurolega, cioè la Final Four, anche all'Eurolega piacciono di più i playoff, però la Final Four è un momento in cui viene catalizzato tutto l'interesse su quell'avvenimento, è drammaticissima, è molto bella, è una cosa meno sportiva, ma sportiva nello stesso modo, perché tira fuori veramente la crudeltà, lo spirito del giocatore, che deve essere il migliore nel momento migliore, sotto pressione. Quindi sarebbe molto bella. Diciamo anche che a livello di spettatori complessivi potrebbe portare anche più pubblico di quello che stanno facendo adesso. Speriamo di non doverci arrivare, ma secondo me che si debba pensare seriamente a che cosa bisogna fare per rilanciare questi playoff che hanno meno pubblico della stagione regolare, che hanno meno attenzione della stagione regolare e che hanno meno pathos in certi momenti della stagione regolare. Bravo. Non so se sono le Final Four, ma dobbiamo pensarci. Ecco, questo sicuramente. Limite, la serie 2 su 3, come si faceva un tempo, anche qui torniamo indietro come i gamberi, però ha più senso, ha più adrenalina. E poi nella serie 2 su 3 con quella che ha il fattore campo, che gioca la prima in casa, ecco, in quella partita ha il mondo sulle spalle, perché è quella che può far saltare il banco. Marco, Milano, buonasera. Buongiorno a tutti, grazie. Io volevo fare due considerazioni rapidissime. La prima riguarda quello che avete appena detto. Io posso essere anche d'accordo che di arrivare a una Final Four, però ho il dubbio che se capita come è capitato a Siena quest'anno, in una giornata poco favorevole degli arbitri, possa condizionare il risultato finale di una stagione giocata magari ad alto livello. E la seconda considerazione è che in playoff, quando non compare Siena, quindi come Cantù Milano, dove dovrebbero essere più tirati, più equilibrati, una squadra come Milano arriva nel momento decisivo e sbaglia 10 tiri liberi negli ultimi due quarti, di cui 9 Mason Rocca, che li ha tirati come le tirano le bambine ai giardinetti. Credo che forse una considerazione di fondo vada al di là degli aspetti tattici, fisici dei giocatori, ma è proprio una questione di capacità del giocatore stesso. Mason Rocca è un grandissimo giocatore, ha una grinta che molti altri giocatori di Milano dovrebbero avere, però non può tirare i tiri liberi come li ha tirati così. Nel terzo e nel quarto quarto Cantù facevano fallo solo su di lui quando erano in bonus, quindi questo ha condizionato il risultato. Questa è una valutazione tecnica anche che va fatta, perché partendo dal presupposto che puoi migliorare ma fino a un certo punto, può esserci la giornata in cui li tiri dentro e quella in cui non li tiri dentro, tu allenatore sai che giochi un giocatore a rischio. Certo, hanno fatto l'Ekeshek su Mason Rocca, e evidentemente io ovviamente concordo col fatto che per quello che riguarda la prima considerazione l'abbiamo detto, è una provocazione. Certo. È chiaro che una squadra che si è meritata tutto l'anno deve essere messa nella condizione di poter avere un giocatore infortunato e vincere lo stesso, avere il fischio contro e vincere lo stesso, perché è giusto che sia così, perché se lo è meritato. Quindi noi, la nostra è una provocazione soltanto per dire: ragazzi, vi accorgete che in questo momento le cose non stanno andando, o comunque il movimento non riesce a sostenere quello che ha messo in piedi. Per quanto riguarda Rocca, effettivamente io credo che una delle cose, Rocca giocatore straordinario, persona straordinaria, tra l'altro giocatore che si è allenato e ha cercato di migliorare questo aspetto, e per molta parte della stagione c'è riuscito. È chiaro che nei momenti decisivi Rocca non può stare in campo, e questo è un altro problema di Milano. E credo che se si ripresenterà la situazione faranno la che Mason. Quindi anche lì Peterson dovrà fare quattro calcoli. Pier Giorgio, Bologna, buongiorno. Salve, grazie. Io volevo fare una considerazione su questa vostra proposta, che mi sembra anche abbastanza corretta a questo punto, cioè nel senso che qualcosa bisogna fare, ecco. Ma sa, alla fine è l'antidoto a Siena, no? Se non riusciamo a trovarlo sul campo se ne trova un altro, però è evidente che quante altre stagioni possiamo sopportare come questa, qualunque antidoto, e come queste, Siena, come le ultime cinque. No, nel senso che purtroppo la cosa che però bisogna anche prendere atto è un problema. Prima parlavate di movimento, del livello del movimento, che purtroppo, bisogna essere onesti, è nettamente calato. Un po' di anni fa avevamo squadre che andavano in Eurolega e non facevano le comparse, cioè andavano là e vincevano l'Eurolega, e non era magari solo una, poteva essercene più di una, e i finali di campionato a quel punto diventavano meno scontati. Purtroppo io non so se è un problema di economico, di forze, di budget in campo nelle squadre. Per noi a Bologna un po' è così, e in altre piazze so che in teoria i soldi ci sarebbero anche, però allora che cosa sta succedendo? Punto di domanda che dovrebbe essere seguito da una chilometrica risposta. Budget sì, ma non solo quello. Guardi, le dico: Marzorati, Riva, Bariviera, Baswell e Flowers, quintetto della Squib Cantù che ha vinto lo scudetto nell'81, l'anno successivo ha vinto la Coppa dei Campioni e quello dopo pure, in finale con Milano. Le spagnole non ci facevano tanta paura, si potrebbe molto banalmente dire che era un altro mondo. In realtà bisognerebbe cercare delle risposte che stanno nei soldi, ma non solo nei soldi. Stanno nei soldi, su come si spendono, su tante, ripeto, veramente risposta chilometrica. Io però, da un certo punto di vista, guardando anche le squadre e tutto, credo che non sia, e forse mi ricollego un po' al discorso che facevi tu prima su Treviso. Noi provochiamo, adesso chiaramente a Siena saranno tutti arrabbiati perché dicono cerchiamo mezzi non leciti. Ma la loro bravura, ma effettivamente, però ripeto, sono rimasto colpito dal fatto che proprio a Siena ci fosse poca gente. Io penso che il pubblico di Siena sia il più fortunato d'Europa e non potrebbe chiedere dalla vita niente di più che vedere questi ragazzi giocare, però non è andato a vedere la partita neanche lui. Dicevo, io non riesco a... è vero i soldi, è vero il livello è basso, è vero tutto quello, siamo in difficoltà, ma io tutta questa differenza, cioè, non la vedo, nel senso, perché Milano non può competere? Perché Treviso non può competere con Siena? È questo che mi sembra, che ci sia qualcosa al di là del budget, della qualità dei giocatori, anche veramente nella testa, nella cultura, nel modo di fare la pallacanestro. È possibile che una squadra che ha una futura prima scelta NBA, che ha tanti giocatori abbastanza forti, ha il nostro miglior giovane, che è un giocatore serio, vada là a prendere 40 punti. Ha tutto sommato centimetri e chili per stare a in centimetri, campo. Centimetri, chili, lunghezza della panchina, un allenatore esperto, va lì e si fa prendere a schiaffi da Michelori, che è un bravissimo ragazzo, ma in questo caso era evidentemente un giocatore tra virgolette in difficoltà rispetto per chili, centimetri, peso rispetto agli avversari. Quindi al di là di tutto il mistero secondo me diventa ancora più fitto, perché non è solo questione Siena ha più soldi di tutti, li spende meglio di tutti, è più bravo di tutti e quindi vince, ma gli altri si arrendono prima di cominciare a si giocare. Francesco, Roma, buonasera. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, cito un'intervista uscita sul Corriere dello Sport il mercoledì 1 giugno di Barocci, Andrea. Toti, due punti, Roma serve un aiuto, devo capire se la città ha ancora voglia di basket. Non è solo il mio club, bisogna trovare il modo di continuare anche con il sostegno delle istituzioni. Abbiamo commesso l'errore di costruire una squadra non adeguata, altri più bravi di noi con un budget più basso. Allora, già il fatto che il prossimo anno forse la Virtus torni a giocare al palazzetto, a Viale Tiziano, molto più centrale del Pala Lottomatica, potrebbe essere già un modo per un po' di pubblico, sì, che è stato il grosso problema di Roma. Ma Roma, non avendo una grossa tradizione, la gente si infiamma solo se ci sono i risultati. E quest'anno, dopo tanti anni, siamo spettatori dei play-off. Sì. Quindi siamo un po' in attesa di capire che cosa faccia Claudio Toti. Non è che poi a un certo punto per vedere del basket a livello nel Lazio dovremo andare a vedere il Veroli in Lega 2. Posso far chiudere con un post-scriptum sulla vostra proposta? Meglio di tre sugli ottavi, eventualmente nelle semifinali anche meglio di cinque, e poi va benissimo la Final Four. A quel punto non sarebbe più Final Four, perché se arriviamo con la semifinale sarebbe semifinale secca e poi finale. Roma e i suoi problemi e la sua depressione, Luca. È chiaro che un'altra stagione così non è pensabile. Sì, questo è uno degli altri misteri. Non sono d'accordo sul fatto che non ci sia tradizione a Roma, nel senso che Roma ha un movimento di basket altissimo, a livello a tante squadre, tanti giocatori, tanti buoni giocatori giovani, tante società piccole che fanno della grande pallacanestro al loro livello, quindi non è una piccola piazza. Non sono d'accordo tornare al palazzetto, perché statisticamente è provato che ogni ritorno in un posto più piccolo non porta più pubblico, anche se è più comodo, perché svilisce quello che è il prodotto che uno offre, perché, come dire, torniamo a vedere le partitine, bisogna sempre puntare in alto e fare il possibile per riempire gli impianti belli, e non dire, come avevano detto anche anni fa a Milano, vabbè, torniamo al Palalido, o anche il tornare al Palalido pur rifatto, secondo me, non lo so, bisogna sempre puntare in alto nella vita. Per quanto riguarda Roma, io non veramente capisco Totti. Ha messo tanti soldi, ha avuto tanti ottimi giocatori, non è mai riuscito dopo la finale del 2008 a ripetersi, ha cambiato troppi tecnici sicuramente. Non so, è la classica situazione in cui probabilmente si doveva lavorare più, diciamo, sulla società che sulla squadra, dare molta più continuità a un lavoro di società che sulla squadra. In realtà hanno cambiato tanto e quando cambi tanto la percentuale di rischio è che ti vada male cresce fatalmente. Flavio Tranquillo, buongiorno. Buongiorno a voi. Dormito poco, Non moltissimo. Non moltissimo, però ne valeva la pena, possiamo dirlo? Beh, bella partita decisamente. Bella partita e io prima con Luca Chiabotti, qui presente, anche col coach, dicevo, importante anche adesso, al di là del ribaltamento del fattore campo, importante anche il modo in cui Dallas ha vinto questa gara, sul prosieguo della serie, o no? Decisamente, nonché il modo in cui l'ha persa Miami, nel senso che sono riemersi tutti in una volta e prepotenti dei problemi che erano lì, che covavano sotto la cenere e che non a caso sono venuti fuori sul più 15, quando istintivamente tendi a mettere un po' i remi in barca e a dire tanto ormai ho vinto. Quello però è un problema serio, perché è un attacco fatto male, strutturato male, che non muove la palla, e in quelle situazioni puoi pagare. Poi naturalmente, se fossero entrati due tiri in più a Miami e due tiri in meno a Dallas, adesso saremmo qui solo a celebrare LeBron e Wade e Riley e Spurster e tutti gli altri. Però quel problema sicuramente gli Heat ce l'hanno. E non va via da solo, ed è una situazione che si ripresenterà durante la serie. Sì, come dicevi tu prima, Luca, problemini di chimica che a giugno sì, sono, a me sono, ha sorpreso, sono un po' surreali. A me ha sorpreso che appunto a un certo punto sul più 15 con Wade a 35 punti, partita già vinta, lui poi sia sparito Wade dall'attacco, non l'abbia vista più, e ci sono stati i famosi, non so, tentativi di LeBron, cioè di giocarsela un po' da solo. Insomma, come diceva Flavio, sono problemi che ci sono dall'inizio della stagione. Sì, e che sono sempre rimasti sullo sfondo. Però sono troppo forti. Flavio, al di là di questa finale, comunque continueremo a vivere. Notizie recenti sulla vicenda LA Messina, Mike Brown, nuovo allenatore. Cosa succede lì? Ma onestamente non sento notizie recenti da un po'. Avrei una mia maniera di interpretare questo silenzio, sarebbe quella che ne sentiremo presto altre più interessanti, però è solo una mia supposizione. Per cui che ci sia qualche cosa è sicuro, secondo me è un qualcosa che va verso un certo tipo di finale, però non ho gli elementi. In questi 2-3-4 giorni non ho avuto nessun elemento diverso rispetto a 2-3-4 giorni fa. Ripeto, io interpreto questo silenzio in un modo, ma è un'interpretazione. Secondo te come finisce, Luca, questa storia invece? Messina va nell'NBA a fare l'assistente? Lo vedi Messina a fare l'assistente? Perché come ha detto lui, è un mestiere profondamente diverso da quello che ha fatto in tutti questi anni, da quando ha smesso di fare assistente per diventare capo allenatore e poi il miglior capo allenatore d'Europa. Beh, certo, che pensare a Ettore che fa i video non è molto così, non è neanche il suo mestiere, non si sa neanche se è bravo. Certamente se Mike Brown è il guru delle difese, ha bisogno però di uno solido che gli possa dare le spaziature, tempi e costruzione di un attacco, credo che se questo fosse il ruolo per Ettore sia una cosa di grande soddisfazione, anche perché si misura con degli ego tali che possono anche essere un momento di crescita, e forse l'unico momento di vera crescita che può avere un allenatore come lui, che ha fatto tutto. Se invece si poi dopo alla fine è una cosa più da normale vice allenatore, allora credo che sì, non sia forse l'uomo giusto nel posto giusto. Altra notizia NBA della settimana. We did it. 19 years, baby. I want to thank you very much. That's why I'm telling you first. 19 anni fa c'era ancora Milan di Sacchi e degli olandesi. No, cioè Michael Jordan era un ragazzino, anche noi eravamo molto più giovani, e Shaquille O'Neal cominciava a diventare Shaquille O'Neal. Adesso a 39 anni dice bye bye baby, io mi fermo qui. È sempre un momento che ti lascia lì un po' così. Altro che. Anche perché Shaquille O'Neal è stato un personaggio fantastico per il suo modo di interpretare le cose. Ogni tanto sembrava un buffone, ma era tutt'altro che un buffone. Diceva delle cose che riempivano di gioia chi le sentiva, perché dava sempre un titolo, dava sempre una cosa divertente, dava sempre qualcosa di particolare. Poi io, che ho avuto appunto la fortuna, o chi ha avuto la fortuna di essere là nelle finali dei Lakers dei primi anni 2000, dove lui ha avuto una media e fu assolutamente devastante, probabilmente il più dominante centro di tutti i tempi, come amava definirsi lui, si ricorda di questo giocatore assolutamente, dove non c'era alcuna possibilità di fermarlo. Sì, sì. Punto e basta. Dopodiché scende un po' la lacrimuccia, a me scende fondamentalmente perché mi è dispiaciuto vederlo nelle ultime stagioni sempre con dei problemi fisici. E, sempre a fare un po' la caricatura di quello, esatto, che, di quello, esatto, che era, esattamente, quello che era stato. Esattamente. C'era la chiusura, Flavio, tranquillo sull'argomento. Ma anche io ricordo gara 4 e gara 5 della serie contro Philadelphia, e sempre sembra, soprattutto quando uno si ritira e quindi si tende a ricordare sempre la parte migliore della carriera, sembrano tutti inarrestabili, sembrano tutti infermabili, però gara 4 e gara 5 io mi ricordo Mutombo almeno 4, 5, 6 volte difendere in maniera perfetta, avere i centimetri, metterci lì la faccia e finire sotto una schiacciata terrificante o sotto un grande movimento. Una combinazione così di forza, potenza e tecnica io non l'ho mai vista. È ovvio che non ho mai visto Chamberlain se non nei filmati, non ho mai visto Russell, ho visto Jabbar, però l'abbiamo visto comunque con attenzione quando già era in parabola discendente, però questo è stato veramente speciale. È stato speciale anche fuori dal campo, ed è ovvio che però facendo quel tipo di vita è poi difficile a 35, 36, 37 anni essere ancora in grado di fare la differenza. Flavio, grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie Flavio, tranquillo, anche per lui sono playoff. Assolutamente. La vita che devi fare vita da atleta per seguire i playoff NBA. Luca, ti ringrazio. Grazie a tutti. Alla prossima. Io ringrazio Luca Chiabotti, Franco Piantanida in redazione. Comunicazione di servizio, domani come da programma estivo non ci saremo, sabato di riposo e di riflessione, domenica invece ultima puntata per A Tempo di Sport domenicale prima della pausa estiva, poi riprenderemo con l'inizio del campionato di Serie A, puntata che diventa anche abbastanza necessaria alla luce delle non divertenti storie settimanali, ne parleremo domenica, vi saluto.